2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda come sempre venerdì 22 e 23, domenica 13 e 30 14. Ma come sempre vi ricordo che la nostra fantastica versione podcast vi offre tutte le nostre interviste in versione integrale. Dunque, se non l'avete ancora fatto, merita di essere visto lo spettacolo andato in scena durante la finale del Super Bowl, nell'intervallo, in cui canta Lady Gaga, un bellissimo spettacolo dal punto di vista tecnico e artistico. Però vorrei attirare la vostra attenzione sulla prima scena, che ha come sfondo il cielo e 300 droni che illuminano la scena con varie forme. Ogni drone ha una lampadina che cambia colore e tutto termina con la bandiera americana formata da questi 300 droni prodotti dalla Intel, che sono in grado di volare in modo automatico secondo uno schema prestabilito. Il volo di droni autonomi è vietato negli Stati Uniti, così come in molte altre parti del mondo, ma per l'occasione l'Agenzia Americana per il Volo ha dato un permesso speciale alla Intel proprio per questo spettacolo durante il Super Bowl. Anche in Italia è vietato far volare droni in maniera automatica. Il volo dei droni deve essere sempre effettuato con un pilota a distanza, quindi con un telecomando che vede il drone e quindi lo pilota a distanza, ma ENAC ha promesso di essere al lavoro per autorizzare le sperimentazioni. E quindi speriamo che questa cosa arrivi presto, perché molti vorrebbero fare sperimentazioni in questo settore, così come c'è chi vorrebbe fare sperimentazioni per la guida autonoma, cioè le automobili a guida autonoma, ma purtroppo il Ministero dei Trasporti latita e non è in grado di rilasciare autorizzazioni speciali. Pensa un po', cosa che sarebbe facilissima, ma invece il Ministero dei Trasporti non è in grado di capire dove sta andando il mondo. Dunque, un'altra notizia della settimana riguarda l'idea di Bill Gates di tassare i robot. La proposta fa notizia soprattutto perché l'ha detta Bill Gates, anche se molti di voi sanno che non è il primo ad aver avanzato una proposta di questo tipo, anzi è da molti anni che esiste un dibattito sui problemi generati dalla diffusione dell'intelligenza artificiale applicata anche ai robot, quindi non solo ai robot in senso stretto. Sicuramente l'impatto che questi sistemi avranno sull'occupazione, quindi sui posti di lavoro, è la conseguenza più preoccupante. Ne abbiamo parlato varie volte a 2024 con vari esperti. La proposta di Gates, tuttavia, è, secondo me, ma secondo molti, fortunatamente poco praticabile, principalmente direi perché è molto difficile definire l'ambito di applicazione. Allora, definisci robot, che cos'è un robot oggi? E poi, se tassiamo i robot perché portano via posti di lavoro nelle fabbriche, tassiamo anche il self-service del distributore di benzina che cancella posti di lavoro perché non ci sono più benzinai? Negli Stati Uniti, ad esempio, da anni che esistono i self-service, non esiste un benzinaio. In Italia ancora qualcuno c'è, però insomma, professione destinata all'estinzione, ma questo accade per molte altre cose. Che cosa facciamo? Tassiamo i bancomat delle banche? Tassiamo il software di fatturazione elettronica, che invece, anzi, stiamo cercando di favorire e agevolare? Insomma, potrei fare una lista lunghissima di domande alle quali secondo me non c'è poca risposta. Allora, su questo tema è interessante tra l'altro registrare una risoluzione del Parlamento europeo che chiede alla Commissione europea di occuparsi di robot e di intelligenza artificiale per far sì che l'Europa si doti di una legislazione sull'argomento che possa anche prevedere una personalità giuridica dei robot. Perché il tema della responsabilità civile delle macchine è un tema molto importante. È stata invece bocciata dal Parlamento europeo una idea parallela a quella di chiedere alla Commissione di occuparsi di una legislazione in generale, però l'idea di tassare i robot. Dietro questa risoluzione c'è il lavoro che va avanti da almeno da un anno della lussemburghese socialista Mehdi Delvaux. Insomma, in sostanza i deputati chiedono che la Commissione si occupi del tema e chiedono anche di prendere in considerazione la creazione di una agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il mercato italiano. Unieuro ha raggiunto un accordo per comprare Monclick, che è uno dei principali siti di e-commerce italiani specializzati in elettronica di consumo. Unieuro pagherà 10 milioni di euro e consolida dunque la propria posizione nel segmento online. Altra acquisizione è stata fatta dalla Apple, che si è comprata una startup israeliana che si chiama Real Face, specializzata nel riconoscimento facciale per vari usi. Si tratta di una tecnologia conosciuta e usata da anni, quella del riconoscimento facciale. Io ho un amico che aveva il computer con un software di riconoscimento facciale, lui apriva il computer e la password non doveva essere immessa perché il computer riconosceva la sua faccia già 10 anni fa. Quindi non stiamo parlando di una cosa nuova. Ovviamente oggi questi algoritmi di riconoscimento stanno migliorando, sono molto più precisi, molto più veloci. E una cosa su cui si sta puntando, sia per ragioni di sicurezza ma anche per ragioni di praticità, è appunto il volto come password. E c'è chi dice che Apple abbia acquisito questa startup per inserire all'interno del prossimo iPhone un sistema di questo genere. Come ripeto, cosa che è già possibile fare, ma ovviamente i sistemi di oggi e i sistemi dei prossimi anni saranno sempre più evoluti e sempre più precisi. A proposito di utilizzare parametri biometrici per ad esempio sostituire le password, c'è chi sta pensando a utilizzare addirittura il battito cardiaco. Insomma, l'impronta digitale e varie altre cose, l'iride ad esempio, sono cose forse meno un po' più scontate, invece il battito cardiaco è una cosa abbastanza nuova. Parliamo di Facebook, che promette di intercettare, grazie alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, notizie false, contenuti legati al terrorismo, alla violenza, all'odio. Allora, la strada sarà ancora lunga e complicata, ammette lo stesso Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook. Intanto anche Google sperimenta questo tipo di tecnologia e ha lanciato uno strumento software che si chiama Perspective, basato su intelligenza artificiale, che aiuterà i media a moderare automaticamente i commenti online bloccando i messaggi di odio. Allora, questo sistema è stato sperimentato con il New York Times, il Guardian e anche altri siti, e funziona così: impara da messaggi giudicati odiosi o fuori argomento da moderatori umani. Quindi impara guardando come fanno gli uomini, però poi in maniera automatica e molto più veloce questo software fa il lavoro che fanno molti umani, a proposito di posti di lavoro che se ne vanno. Parliamo ancora di droni, perché il Corriere Espresso americano UPS ha mostrato una sperimentazione molto interessante per le zone di campagna, quindi zone remote dove le consegne di un corriere richiedono molto tempo, bisogna andare da una casa all'altra. Allora, UPS ha pensato di installare un drone sopra al furgone. Il drone effettua la consegna, il furgone nel frattempo prosegue la corsa verso un'altra destinazione, il drone effettua la consegna, insegue il furgone, atterra nuovamente sul tetto pronto per la prossima consegna. Quindi di fatto il furgone è una sorta di base dove sono immagazzinati tutti i pacchi che dovevano essere consegnati, il drone va e viene dal furgone e tra l'altro il furgone serve anche per ricaricare il drone. Un'ultima notizia riguarda il mercato italiano della smart home. Allora, l'osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano ha presentato una ricerca sulla casa intelligente in Italia, sul mercato italiano. Allora, sono 290 le soluzioni per la casa connessa censite sia in Italia che all'estero. Il 31% è dedicato alla sicurezza tra videocamere di sorveglianza, serrature, citofoni connessi, sensori di movimento, bla bla bla. Ma poi l'altro grande settore che sta crescendo è quello della gestione energetica. Il altro dato interessante è che il 68% delle soluzioni sul mercato possono essere installate in autonomia, quindi io vado, compro e posso installare, ma il 70% di chi ha acquistato prodotti connessi di smart home si è poi rivolto a installatori o piccoli rivenditori, e questo forse è un freno al mercato, perché sappiamo benissimo che molti installatori non ci stanno capendo nulla su questa rivoluzione della smart home, e quindi sono un po' impacciati di fronte a queste, a questa rivoluzione. Poi ci sono quelli molto bravi che hanno capito e sono degli acceleratori del mercato. Adesso il nostro primo approfondimento di questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Trovate anche altre modalità per interagire con noi su Facebook e Twitter. Cercate 2024 oppure Enrico Pagliarini. Dunque, quando una persona, ad una persona viene impiantata una protesi meccanica, che ne so, un'anca artificiale, una protesi per ricostruire una gamba o un braccio, oppure una protesi meccanica ed elettronica o meccanica ed elettrica con, come un pacemaker, bene, siamo di fronte ad un primo accenno di cyborg. Allora, questa è una parola che è nata dalla crasi, quindi dall'unione di cybernetic organism, che è appunto un mix fra umano ed elettronico. Questo confine si sta spostando sempre di più, vista l'evoluzione di protesi e organi artificiali, quindi pensate quello che succederà nei prossimi anni. E questo mix, quindi di corpo umano con qualcosa di tecnologico, di elettronico, di meccanico, porrà delle domande le cui risposte non sono facili, ci saranno conseguenze etiche piuttosto importanti. Di questo si occupa un gruppo che ha formato un movimento, ne parliamo con Christian Esser, che è venuto a trovarmi nei nostri studi. Christian, benvenuto a 2024. Ciao, grazie, benvenuto anche a te. Cioè no, tu sei sempre qui. Io sono sempre qui. Eccoci. Esattamente. Christian, se io volessi definire che cosa tu fai, allora tu ti occupi di tecnologia. Sì. E su questo non ci sono dubbi. In che modo, che tu hai attivato nel corso degli ultimi anni tantissimi progetti con tante aziende, soprattutto in Olanda, ma non solo in Olanda, come ti potrei definire? Allora, io sono una persona creativa, non sono tecnologico, però sono molto curioso e mi piace la tecnologia. Allora, quello che dico in genere ai miei clienti, io viaggio un po' nel futuro, sono la tua guida per il viaggio. Ritornando ti racconto quello che ho visto e cerco di fartelo capire. Insomma. Adesso tu dici sei poco tecnologico, poco fa abbiamo fatto una chiacchierata su Bitcoin, blockchain ed eri super preparato, quindi non è vero che non sei tecnologico, magari un giorno parliamo anche di blockchain. Oggi invece vorremmo parlare di Tecnolympics. Sì. Io conosco Tecnolympics da un po' di, forse da un anno anche, forse un po' di più. Sì, ne avevamo parlato ancora. Esatto, però tu mi hai sempre detto non bisogna, per adesso teniamo la cosa segreta. Allora, che cos'è Tecnolympics? È per il momento un movimento, però è un'idea molto interessante che ci racconta che cosa sta succedendo dal punto di vista tecnologico, soprattutto a noi umani. Sì, sì, sì. I cyborgs stanno arrivando, nel senso, non è che arriveranno, sono già qua, quasi, sono alle porte, in certi casi ci sono. Definisci cyborg? Il cyborg è mezza persona e mezzo computer, dove il computer e la relazione tra persona e computer è una relazione a livello emozionale, a livello neurologico, nel senso io posso dire al computer cosa fare solo pensando, per esempio, e quando questo computer è parte del mio corpo ho un'interazione quasi naturale tra me e il computer nel mio corpo. Ok, quindi non stiamo parlando di robot. No. Stiamo parlando di uomini che per mille motivi, o volontariamente o per esigenze, per necessità, hanno tecnologia che può essere o potrà essere, che ne so, anche un organo tecnologico. Esatto. Però tu dici stiamo andando verso un'era in cui non ho solo, che ne so, una gamba di acciaio o ovviamente di altri materiali più sofisticati, ma avrò sempre più parti che interagiscono col mio cervello. Esatto, perché vediamo anche che nella tecnologia artificial intelligence ci può anche aiutare in certi casi. Noi riusciamo a pensare fino a un certo punto, ma il nostro aiuto tecnologico ci può anche aiutare ad andare ad oltre. E questo oltre può essere anche nel modo in cui ci muoviamo, per esempio. Certo, quindi dobbiamo prepararci a questa era. Esatto. Però insieme a questi sviluppi ci sono anche tantissimi aspetti etici che noi dobbiamo essere preparati a confrontare, per nel senso porta dei cambiamenti e come tutti i cambiamenti bisogna anche guardare cosa significano questi cambiamenti per noi. Certo, e dovremmo prepararci prima, costruire anche delle regole, forse, non lo so. Esatto. E noi come umanità in genere abbiamo un difetto. Il difetto è che vogliamo, in genere ripariamo le cose che si rompono dopo che si sono rotte. Facciamo un esempio un po' grande, ma Oppenheimer al tempo non è che abbia fatto un giro di telefonate con tutti dicendo qual era la sua idea e dopo sviluppato l'idea, no. Dopo che è successo il patatrac ci siamo resi conto che c'erano dei problemi etici anche. E al tempo le tempistiche erano abbastanza lunghe, però con i cyborg e tutto quello che arriva adesso, vediamo anche la celerità delle tecnologie in questo momento, i problemi che si affrontano bisogna confrontarli prima, bisogna cercare di anticipare sui tempi per far sì che noi pensiamo in modo giusto sulle tecnologie che ci vengono ad invadere, diciamo, certo, in questo momento. Questo l'abbiamo detto altre volte, 2024, parlando ad esempio di veicoli automatici a guida autonoma. Parlando di, a proposito di intelligenza artificiale, di armi, abbiamo intervistato più di una persona che ci ricordava la necessità di creare un set di regole tali per cui dobbiamo decidere oggi che cosa succederà quando delle macchine saranno in grado di decidere autonomamente se uccidere o meno una persona. Esatto. Quindi, questi sono problemi che quando parliamo di macchine sono ancora oggetti fuori dal nostro corpo. Pensa al momento che abbiamo oggetti che sono dentro il nostro corpo, vediamo che l'urgenza diventa ancora più grande perché, insomma, ci viene molto vicino. Certo, però stiamo parlando di cose che accadranno nel giro di 10, 20, 30 anni. Ma forse anche meno. Tu dici meno. Forse anche meno. Abbiamo visto che tutte le tecnologie, tutti i movimenti adesso sono esponenziali e significa che anche questo movimento sarà un movimento esponenziale. Adesso non ho questa palla di vetro di sapere esattamente come e quando, però ci sono abbastanza indizi per capire che ci sono questi movimenti. Certo. Tecnolympics che cos'è? Allora, dicendo, come avevo detto, dobbiamo cercare di anticipare i tempi per far sì che noi parlo a livello di umanità, tutto il mondo, per far sì che noi tutti ci rendessimo conto di quello che sta avvenendo, dobbiamo visualizzare questa cosa. Come facciamo? Allora, noi abbiamo pensato, e noi dico io con un paio di persone, stiamo creando questo movimento che, come hai detto tu, è già da un paio di anni che stiamo facendo, ma adesso iniziamo a dargli anche corpo. Abbiamo pensato che sarebbe una buona idea di chiedere al Olympic Committee, ai giochi olimpici, di aggiungere una terza categoria. Abbiamo i Paralympics, gli Olimpiadi normali, e vorremmo che aggiungessero anche i Technolympics. Per il semplice fatto che anche loro saranno confrontati a un certo punto, che arriva l'atleta, magari con un cuore nuovo perché ha avuto un incidente, un cuore tecnologico, perché ha questo cuore riesce ad avere una performance più elevata e dice: voglio partecipare ai giochi olimpici. Loro cosa dicono? Cioè, secondo il carattere dei giochi olimpici, secondo me non potrebbero dire no, certo. Però devono dare una risposta. Però, sì. Facendo questa terza categoria, creiamo un podio ogni 2 anni, perché abbiamo l'estate e l'inverno, mondiale, per far vedere cosa i cyborgs fanno o potrebbero fare nel futuro. Questo podio fa in modo che tutto il mondo inizi a realizzarsi cosa sono i cyborgs, cosa potrebbero portare, e iniziamo a pensare all'etica dei cyborgs in questo modo. Creando questa awareness mondiale, riusciamo anche a, non dico influenzare, però a far sì che anche il tecnico che sta facendo un nuovo esperimento sui cyborgs abbia una coscienza etica a riguardo di quello che sta facendo, insomma, sì, è quello che vogliamo. Allora, l'idea era chiedere ai giochi olimpici di aggiungere la terza categoria. Non dirglielo ancora perché non abbiamo ancora parlato con loro. Ah, non avete ancora dei contatti. No. Esatto, okay. Allora. Vabbè, però. Siamo in due qua. Sì, immagino che qualcuno poi, se non direttamente ci sia qualcuno del Comitato Olimpico che ascolta, qualcuno lo va a riferire, quindi... Immagino. Senti, avete già stabilito un set di regole, cioè un'indicazione di massima di regole, o questo è una, un'attività che andrà fatta assieme al Comitato Olimpico, assieme a un gruppo di esperti? Abbiamo fatto un manifesto, come tutti i movimenti, un manifesto che si trova su technolympics.org. In questo manifesto raccontiamo quello che sto raccontando anche adesso in questo momento, e quello che vorremmo fare è creare un movimento tra il mondo della scienza, il mondo politico e l'economia, cioè questi tre attori. E vorremmo creare una piattaforma dove inizi il dialogo, la discussione, la conoscenza, organizzare seminar, organizzare delle conferenze, organizzare dei modelli online dove la gente può collaborare a riguardo di questo tema. Una volta cresciuto, e ci servirà un po' di tempo e ci serve anche dell'aiuto, specialmente dal mondo aziendale, una volta cresciuto questo movimento, sarà il momento in cui andremo ai Giochi Olimpici a dire: ascolta, noi abbiamo fatto il nostro lavoro, vediamo se adesso anche voi potete fare e interagire insieme a noi. Certo. Adesso, dicendolo anche in questo momento, è logico che se loro sono aperti e sono disposti a volere collaborare già adesso con noi, benvenuti. Solo che noi abbiamo deciso, intanto partiamo e poi vediamo, insomma, questo è un certo, po'. Certo, certo. Tutto nasce in Olanda, giusto? È nato tutto in Olanda, sì. Abbiamo già adesso nel piccolo, cerchiamo appoggi, come dicevo, anche dal mondo dell'azienda, ma anche dal mondo scientifico. E dalla Università di Eindhoven, cioè abbiamo già una persona che è professore in robotica che ci aiuta e ci dà supporto, cioè pensa insieme a noi. Abbiamo già dei contatti con la politica in Olanda, però anche lì la politica ogni 4 anni, specialmente in Olanda, cambia, bisogna vedere cosa succede, ma in ogni caso c'è un aggancio. Qui cambia anche un po' più spesso, lo sai. Esatto. E quello che stiamo facendo adesso, iniziamo un roadshow per trovare le 5 ditte founder di questo movimento, ditte che ci devono aiutare in 3 anni arrivare a livello. Senti, se ti facessi questa domanda, mi fai un esempio ad oggi di un cyborg? Perché l'unica cosa che mi viene in mente è, ed è una persona che io tra l'altro intervisto anche, chi si è messo, ce ne sono alcuni nel mondo ma non tantissimi, chi si è messo un chip all'interno del corpo, esatto, nella mano, un chip sotto pelle, è un primissimo esempio di cyborg. Sì, sono i primi passi, sì. Sono i primi passi. E non siamo, ma ti anche... viene in mente qualcosa di più sofisticato? C'è già un ragazzo che è daltonico e ha impiantato un sensore nel suo cervello che gli dà un feedback del colore in suoni. Ah. Il che significa che può coltivare un nuovo senso nel suo corpo che gli dà un'indicazione dei colori che vede. Per quindi sì, di fronte al semaforo gli arriva un certo suono e gli dici: guarda che è rosso. Esatto, okay. E ci sono già anche, e questa è una tecnologia abbastanza invasiva perché è stata impiantata nel suo cervello, ma ci sono già anche tecnologie meno invasive come per esempio... dei jack, delle giacche con, sì, dei sensori sulla schiena che il momento che sentono dei rumori, il parlare, i suoni, sì, traducono i suoni in movimenti nella giacca. Tu te li senti addosso e tenendo la giacca, per esempio quando sei sordo, riesci a avere un certo tipo di percezione del nostro discorso sulla giacca. E la cosa interessante lì è che più la metti addosso e più il tuo corpo inizia a abituarsi a queste sensazioni e inizia a avere una specie di autonomia quasi fuori dal... All'inizio pensi come devi, a un certo punto abitui, senti esattamente come... questo tipo di interazioni, che adesso sono non invasiva nel caso della giacca, saranno più e più invasive anche nel futuro, perché se noi abbiamo una parte di braccio, per esempio, che deve essere automatizzato, io vorrei non più... farlo muovere dicendo muoviti perché schiaccio un bottone oppure perché tiro un muscolo. Vorrei che dica che si muova perché penso che io... Certo, in modo naturale, esatto, funzioni in questo, esatto, modo, certo, certo. Che dire, in bocca al lupo, cerchiamo, grazie, anche persone che aderiscano a questo movimento ma che abbiano anche... possibilmente una competenza per contribuire alla creazione di questo. È tutto in inglese? Eh? Certo, tutto in inglese e ci trovate, come detto prima, technolympics.org. Chiunque abbia un'idea, abbia un... assolutamente, prendete contatto con noi e da lì vediamo come la cosa va avanti. Una bella idea. Grazie a Christian Esser per essere stato con noi. A presto, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a te, Enrico. Adesso cambiamo argomento, cambiamo ospite, voce. Da un po' di tempo non veniva a trovarci nei nostri studi perché è andato un po' in giro per il mondo, dopo gli Stati Uniti, il Giappone. Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato in Italia anche a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. A proposito del dibattito attuale sul mondo dei robot, ci porti comunque una buona notizia, poi forse queste notizie diventano più preoccupanti nell'arco dei prossimi 10, 15, 20 anni. Per il momento tu mi hai raccontato una cosa che da un certo punto di vista può essere sorprendente, che nelle fabbriche automatizzate giapponesi i posti di lavoro non se ne sono andati, cioè se ne sono andati 20 anni fa. Sì, proprio così. Abbiamo visitato alcune fabbriche Mitsubishi Electric, dove Mitsubishi non solo produce dei prodotti ma sperimenta anche tutti i metodi di produzione di automazione industriale, e il confronto tra le linee automatizzate di 20 anni fa, più o meno degli anni, della fine della seconda metà degli anni 90, con le produzioni IoT, Industry 4.0, quindi robotizzate e connesse di oggi, di fatto sono produzioni molto più flessibili quelle di oggi, che si adattano molto meglio alla domanda, che minimizzano le scorte, minimizzano anche lo spazio, ma impiegano lo stesso numero di persone. Le impiegano in ambiti più, fatemi dire, umani, quindi meno ripetitivi, forse anche meno stancanti. Però il numero di addetti, ho fatto proprio questa domanda specifica, a parità di produzione è rimasto assolutamente identico, è forse qualche anno fa che si è decrementato. Questo per quanto riguarda la tipica produzione manifatturiera, ed è un segnale, diciamo, un po' in controtendenza rispetto a quello che si dice oggi, a quello che si pensa, anche se, anche se poi, io ci tengo a sottolineare, qui stiamo parlando di un dibattito che stiamo facendo anche a 2024 con gli esperti che avete sentito nelle ultime settimane sull'introduzione di intelligenza artificiale nella azienda in generale, non solo nella fabbrica manifatturiera, e io sono tra quelli convinti, ma lo dico perché sento quello che dicono gli esperti, che i problemi ci saranno appunto nei prossimi 10, 15, 20 anni. Poi vedremo nei prossimi anni che cosa succederà. Beh, la cosa interessante del Giappone è che di fabbrica 4.0 loro parlavano 15 anni fa. Sì, per esempio nel 2003-2004 con i concetti di e-factory, di fatto tutta la filiera giapponese aveva già incominciato a trattare questi temi. Oggi, con lo sviluppo di certe tecnologie anche di connessione, l'internet pervasiva, lo sviluppo vero e tutte le applicazioni IoT, questo diventa una realtà non solo accessibile ma anche facile da predisporre. In questo caso comunque i tedeschi sono stati più bravi come marketing, perché i factory non se l'è filato nessuno, non è diventato un trend mondiale. Invece fabbrica 4.0, industria 4.0, factory, quello che vogliamo, è diventato un tema di dibattito in tutto il mondo ed è nato in Germania. Beh, questo i manager giapponesi con i quali ho parlato l'hanno riconosciuto. Detto che parlare nel 2003 di un concetto di e-factory, che quella e veniva in qualche modo mutuata dall'email, è stato un po' troppo presto. Delle volte anticipare troppo i tempi non sempre porta fortuna. E comunque alcune cose, poi tu che vai spesso in Giappone ci confermi, accadono in Giappone e non sempre è possibile poi replicare nel resto del mondo. Assolutamente no, è un mondo a parte, cioè il Giappone è un mondo a parte e i giapponesi lo sanno, tant'è vero che dividono il mondo assolutamente in due: il mercato cosiddetto domestic, quindi quello nazionale, che ha priorità logiche di un certo tipo, e overseas, quindi il resto del mondo, oltre il mare, quello che c'è oltre il mare è tutto diverso. Dunque, ecco, se noi invece parliamo di uno dei prodotti che ha fatto il successo del Giappone, i televisori, poi il mondo si è spostato alla Corea, si sta spostando in Cina. Se guardiamo a quello che sta succedendo oggi sul mercato OLED, da questo punto di vista i giapponesi non sono più leader, quindi il mercato là è uguale al nostro. Il mercato ormai è assolutamente globalizzato, sì. Sui TV, lo stesso modello lo si acquista in tutte le parti del mondo. È una cosa che 10 anni fa solo, tanto non accadeva nella maniera più assoluta. Tra l'altro in totale sincronia, quindi una volta c'erano i lanci, per esempio in Giappone, Estremo Oriente, che anticipavano di 8 mesi, 9 mesi, o anche di più i lanci corrispondenti in Europa, o addirittura la prima generazione di certi prodotti non arrivava neanche da noi. Invece adesso è tutto globalizzato. E quello a cui stiamo assistendo e che si sta vedendo proprio in queste settimane è una specie, verrebbe da dire, di inversione dei ruoli. L'anno scorso l'OLED non è una novità, quindi l'abbiamo già visto, è già stato un successo. Notizie di queste ore: in Italia sono stati venduti, accumulati ovviamente, 50.000 TV OLED nel 2000 o in totale, diciamo, da quando sono usciti a prezzo accessibile, okay. Cioè, quando non costavano più 8.000 euro, certo. Ma sono arrivati a costare 3.000-2.000 euro. Sì. E sono stati venduti 50.000 TV, che è un numero importante per il tipo di segmento, dimensione e prezzo, sì, sì, di quel TV. Ovviamente è una quota parte molto piccola dei 4 milioni e mezzo di TV che vengono venduti ogni anno in Italia. Una elite, no? Però, fino all'anno scorso era fondamentalmente prodotti da LG, punto, e basta. Che ha una serie di brevetti su questi display, che è riuscito a trovare un equilibrio tra prestazioni e costi, eccetera, eccetera. Gli altri facevano LCD, retroilluminati a LED, più o meno belli, più o meno sofisticati. Capofila ovviamente di questa compagine Samsung, leader di mercato, che oramai è proprio anche leader tecnologico su quel fronte LCD. Era un uno contro tutti, quindi LG contro il resto del mondo. OLED ha avuto un successo importante, non soltanto, anzi forse non solo nei numeri di vendita che abbiamo visto essere rilevanti, ma non, certo, non rivoluzionari. Sì, sì. Adesso diciamo dicevi così. Si sono invertiti i ruoli perché? Sono invertiti i ruoli perché in tanti, direi tutti i nomi, forse tranne Samsung, che contano, sono saliti sul carro dell'OLED. E quindi, quindi è rimasto Samsung da solo con l'LCD contro tutti gli altri, quasi tutti gli altri. Beh, sulla fascia alta di mercato, perché gli altri continuano a tenere anche LCD. La stessa LG ha anche i TV LCD. Sì, eh? Sì, sì. Quindi tutti fanno TV LCD. Solo che praticamente contemporaneamente Panasonic, Sony, Philips, ecco, hanno aggiunto alle loro gamme, in cima alla gamma, fondamentalmente un TV OLED o più TV OLED. Panasonic arriva con 4 modelli, Sony arriva con un modello molto particolare in 3 tagli di polliciaggio, Philips ne ha inserito uno, ma ne arriveranno degli altri. Quindi, quando dici arriveranno nel giro di? Allora, tutti i TV nuovi tradizionalmente arrivano sul mercato, vengono lanciati tra maggio, giugno, al più tardi luglio. Okay, questo quindi, perché devono essere assolutamente assortiti e disponibili nella seconda parte dell'anno, dove è il momento in cui si vendono più TV. Prezzi? Allora, il riferimento di prezzo è ancora LG, perché tutti questi TV, guarda caso, hanno pannelli prodotti da LG Display. Pensa a te. E quindi gli altri produttori fanno solo l'elettronica di controllo del pannello? Che non è una stupidaggine, okay. Nel senso che non è una cosa che non sono due condensatori in fila. Cioè ci sono algoritmi, quindi c'è software e ci sono chipset, quindi hardware. Panasonic per esempio dice: noi con la nostra esperienza del plasma, che è una tecnologia molto simile all'OLED perché è self-emitting, perché emette spontaneamente la sua luce, abbiamo imparato a pilotare bene il plasma in tutti gli anni in cui l'abbiamo esercitato. Oggi abbiamo un'elettronica che è meravigliosa e pronta per pilotare al meglio gli OLED come gli altri non sanno fare. Questo è quello che dice Panasonic. Sony, anche lei, dice di aver applicato un processore particolarmente sofisticato per il pilotaggio. Ma tutti i pannelli sono di produzione LG. Questo mette LG ovviamente in condizione di essere leader di prezzo, okay. Cioè di avere, quindi, dei prezzi. Ma il 55 pollici OLED, l'abbiamo visto, se doveva stare intorno ai 1980 e è rimasto più o meno in quella fascia lì, sopra i 1750, sotto i 2000 euro, sopra i 1750, salvo promozioni istantanee, locali, eccetera, eccetera, esatto. Perché quando un negozio sconta il 20% su tutto quello che c'è nel negozio, è chiaro che uno può andare a farla fare in quel caso sull'OLED. Gli altri stanno più o meno su quel. Gli altri, limite. Almeno con i prodotti di punta, si posizionano più in alto, dove anche LG ha dei prodotti più costosi. Quindi diciamo che, per esempio, il TV Sony. Ce lo aspettiamo a qualche cosa intorno ai 3.999 di listino, che diventeranno magari 3.400. Quindi purtroppo stiamo parlando ancora di prodotti d'elite, perché sono a prezzi. Infatti per questo 50.000 venduti sono un numero che può far notizia, anche se a livello assoluto ovviamente sono pochi. Certo. Quindi adesso Samsung resta con i suoi QLED, quindi con il Quantum Dot, e quindi l'ultima evoluzione stato dell'arte degli LCD, a proporre come scelta per il top di gamma un qualcosa che non è OLED. Quindi un po' le parti si sono invertite, però devo dire a me piace molto la dialettica, e quindi il fatto che ci sia competizione, che i produttori cerchino di superarsi anche sulle prestazioni, oltre che sul prezzo, eccetera, eccetera, è sempre una buona cosa. Meglio vanno i TV e più noi siamo contenti. Molto bene. Comunque è un tema su cui torneremo, però aspettiamo che questi prodotti poi siano visibili nei punti vendita. Non mancano molte settimane. Ecco, però insomma qualcosa sì. Allora, una cosa che è successa in queste ultime settimane: è arrivato sul mercato un prodotto di cui si è parlato tantissimo un paio di anni fa, un termostato chiamato Nest, famoso perché è stato acquisito, questa azienda è stata acquisita da Google, che quando tutti ne parlavano era il primo arrivato sul mercato. Adesso io poi ti chiedo che cosa fa, perché era famoso, e se lo guardiamo dal punto di vista dell'Italia è l'ultimo arrivato, perché è arrivato poche settimane fa. Cosa fa di particolare questo termostato? Allora, noi dobbiamo partire da cosa c'era prima e cosa c'è adesso ancora nella stragrande maggioranza delle case degli italiani. Ci sono dei cronotermostati in cui viene, nella migliore delle ipotesi, regolato un piano settimanale di temperature. Quindi so che, non so, da lunedì a venerdì sono in ufficio, quindi di giorno terrò una temperatura più bassa, la alzo invece la sera, regolo dei set point cosiddetti, quindi le temperature, e gestisco il mio riscaldamento in maniera, diciamo, intelligente, cioè con rispetto agli impianti degli anni 70-80, dove invece il riscaldamento era acceso nelle ore di funzionamento, era sempre acceso. Okay. È una modalità intelligente, ma non troppo intelligente, perché quel giorno potrei non essere in casa, oppure potrei avere magari l'influenza a essere in casa in un giorno feriale e quando il riscaldamento è basso, quindi devo poi intervenire sulla centralina, sul mio termostato, e dirgli: ma guarda, sono in casa, quindi tirami sulla temperatura, eccetera, eccetera. Il termostato non sa nulla del meteo che c'è fuori, per esempio. E quindi scalda, certo, scalda sulla temperatura, però non è in grado di prevedere che nevicherà, e quindi di prescaldare la casa un po' di più, perché poi farà più freddo, sta arrivando una perturbazione. Quindi Nest cosa introduce? Introduce un controllo, sempre della temperatura, però fatto in maniera intelligente e telecontrollabile, cioè gli elementi sono questi due. Intelligente cosa vuol dire? Che diverse fonti di informazioni cooperano e collaborano alla regolazione del set point, quindi non soltanto un piano di funzionamento settimanale che si può comunque impostare, però poi ho delle modalità facilmente impostabili al volo, delle modalità di risparmio, delle modalità di rientro in casa straordinario. Addirittura posso utilizzare la geolocalizzazione dello smartphone per accendere o spegnere il riscaldamento a seconda se io mi avvicino a casa o me ne sto andando cioè via. Tu puoi dire allo smart, perché stiamo parlando di un prodotto smart e quindi connesso alla rete e connesso anche al nostro smart, con un'app io controllo tutto. Sì, voglio dire adesso per chiarezza che non è solo Nest, ecco, che infatti, sono arriviamo tutti al punto. I termostati smart che con meccanismi più o meno sofisticati si comportano più o meno allo stesso modo. Certo, Nest è integrato nell'ecosistema Google, che evidentemente ha come dire, una maggiore facilità di integrazione con altri sistemi. Però diciamo, quando Nest è arrivato era, se non il primissimo, comunque uno dei beh sì, di fatto il primo che faceva queste cose. Sì. Poi nel giro di questi due anni molti termostati sono diventati smart. Sì, viva Dio, perché questo è terribilmente comodo. Allora, non soltanto per accendere, spegnere, regolare il riscaldamento da remoto, cosa che è utile, ma che tutto sommato anche con un SMS si faceva con sistemi di vent'anni fa, tanto per intenderci. Però è più facile farlo con un'app e farlo al volo, quindi c'è la teleconnessione e c'è un sistema esperto, torniamo un po' al discorso dei robot che stanno facendo prima, no, qui non porta via nessun posto di lavoro, perché non è che ci fosse un omino a regolare la temperatura di casa, però lo fa in maniera più sofisticata, anche per esempio sulla base delle condizioni meteo esterne e delle previsioni. Questo senza necessità di avere una sonda esterna che rilevi la temperatura esterna e regoli di conseguenza, non so, la temperatura dell'acqua piuttosto che, ma con un sistema che evidentemente si basa sull'incrocio di più fonti di dati, quindi le previsioni del tempo e lo stato meteo a Milano in questo momento è un dato che i sistemi internet hanno, e quindi sulla base di quello, anche la tendenza e le previsioni, sulla base di quello il riscaldamento si comporterà di conseguenza, conoscendo anche, questo è molto importante, la caratteristica termica dell'abitazione. Quindi nei primi giorni di esercizio un termostato smart in qualche modo testa la casa, la misura, impara, dice, ma se io lascio acceso in quanto tempo recupero un grado? Perché la casa può essere più o meno coibentata, più o meno grande, più o meno esposta a nord o a sud, può avere tanti spifferi o pochi spifferi, tanto per intenderci. Quindi impara anche quanto tempo serve per arrivare a tal temperatura. Quindi come si comporta il termostato smart rispetto a un termostato tradizionale? Il termostato smart non accende all'ora in cui gli diciamo di accendere. Cioè noi su un termostato tradizionale diciamo alle 6 accende il riscaldamento perché io mi alzo alle 7, in modo tale che non trovo il gelo quando mi alzo. No, al termostato smart io gli dirò alle 7 voglio 21 gradi. E lui sa lui quando deve iniziare a scaldare, perché sa, perché l'ha imparato nei giorni precedenti, qual è la tipicità termica della mia casa, in considerazione del fatto che fuori c'è 2 gradi più di ieri o 2 gradi in meno. E quindi di conseguenza accelererà un po' di più. Quindi inizierà un pochino prima, inizierà alle 6:15 a scaldare, o se fa più freddo inizia alle 6. In questo modo, dopo un po' di apprendimento delle caratteristiche dell'impianto, anche della capacità della caldaia di scaldare, eccetera, eccetera, diventerà precisissimo, come un termostato tradizionale non potrà mai essere. A cosa corrisponde? Perché poi alla fine dobbiamo anche guardare non soltanto al comfort, ma al portafoglio. Di certo, ho le temperature che voglio. E compatibilmente con la possibilità dell'impianto di raggiungerle. Se io voglio avere 30 gradi e l'impianto non ce la fa. Però ho un risparmio energetico, perché vado a usare tutta l'energia che mi serve, ma solo dove mi serve, solo quando mi serve. Anche il fatto di poter spegnere il riscaldamento dalla metropolitana perché ci siamo dimenticati semplicemente che siamo usciti di sabato, che non era previsto, solito il sabato il riscaldamento è acceso perché si sta a casa, invece siamo usciti a fare shopping, spegniamo il riscaldamento, quelle 2, 3, 4, 5 ore non sembra ma contano. Noi abbiamo fatto delle prove reali sul campo, le stiamo riverificando anche quest'anno, ogni volta purtroppo che si fa una prova nell'arco dell'anno, volta che si fa una prova passa una stagione, quindi fare una prova vera dura un anno. E il risparmio che noi abbiamo verificato esserci da un termostato pur evoluto, cronotermostato ma tradizionale, a un termostato smart è tra il 15 e il 25% del consumo di gas. Questo vuol dire che i 249 euro di Nest o costi equivalenti degli altri termostati smart si recuperano nel giro di al massimo 2 stagioni. Quindi è un costo che si ammortizza molto velocemente e che, oltre ad ammortizzarsi molto velocemente, offre un comfort migliore, una comodità migliore. Ultimo punto, è stato detto, anche noi l'abbiamo detto, che nell'ultima finanziaria, come nella penultima, era stato inserito un provvedimento per cui i termostati smart godevano dell'abbattimento fiscale 65%, come gli interventi di efficientamento energetico. Questo alla fine per Nest e tutti i suoi fratelli, si permette di dire, non è vero, perché uno dei requisiti che poi è stato introdotto in realtà nella legge è stato che il sistema permetta anche da remoto di vedere consumi istantanei e cumulati, questo per sensibilizzare l'utente al contenimento del consumo. Ecco, i termostati smart generalmente questo non lo fanno, quello lo fanno i sistemi di contabilizzazione, che peraltro sono diventati obbligatori nei condomini, sì. E quindi c'è un grande movimento anche sui sistemi di contabilizzazione, magari un'altra volta potremmo parlare anche di questo, perché è un tema molto sentito soprattutto nei condomini. Però i termostati smart come Nest non danno queste informazioni, quindi non godono del 65% di incentivo. Ok, giusto per chiudere un discorso al quale abbiamo accennato poco fa, la geolocalizzazione significa che io ho la mia app che controlla il termostato smart in casa mia, posso dire al sistema: guarda che quando arrivo ad un chilometro da casa tu ti devi attivare, devi cominciare ad aumentare la temperatura. Posso impostarlo in vari modi e posso estendere questa cosa alla famiglia. Magari ho il figlio che torna a casa in un momento imprevisto, perché la particolarità di questi sistemi è che, essendo intelligenti, reagiscono a momenti imprevisti, perché sennò, se tutto previsto, poteva andare bene anche il vecchio. Assolutamente sì, e devo dire con ci sta pian piano realizzando un passaggio che è assolutamente auspicabile nel mondo IoT in generale, non solo quello dei termostati. Il passaggio dalla necessità dell'intervento umano, come è oggi su tutti gli apparecchi IoT, all'interazione automatica tra informazioni sulla base di regole che detto, ovviamente, ma l'interazione automatica. L'esempio della geolocalizzazione è un esempio di quel tipo, cioè l'impianto di riscaldamento reagisce autonomamente, automaticamente a un mio spostamento sul territorio. Non ho bisogno di ricordarmi che a casa fa freddo, che sto tornando a casa, e quindi posso teleaccenderlo. Questo è quello che si fa e che tutto sommato si faceva anche l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa con tutti gli apparecchi IoT. L'interazione tra sistemi e l'informazione con un motore inferenziale che non è l'uomo, che non è più il centrostella, è una cosa che ancora si deve realizzare in larga parte e che speriamo si realizzi tutto sommato, perché sennò il vero potenziale di tutto questo ecosistema IoT di cui parliamo tanto, smart home eccetera eccetera, non si mette a terra per davvero. Cioè restiamo ancora nella necessità di interagire con lo smartphone su 100 app, una per ogni apparecchio, generalmente diverse, non compatibili, e quindi dobbiamo ricordarci noi di accendere, non lo so, dico una cosa banale, l'irrigazione, perché oggi non sta piovendo, piuttosto che invece quando piove l'irrigazione non deve partire, deve farlo in automatico. Esistono i sistemi che lo fanno, però non tutti, il futuro ci porta lì. Bene, grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille. Bentornati, questa è la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Dunque adesso ci domandiamo: per quale motivo c'è chi dice che nel giro di 10-15 anni i libri, ma forse non solo i libri, saranno tutti digitali, ma non costeranno nulla, saranno gratuiti, saranno a costo zero. Antonio Tombolini, l'amministratore delegato fondatore di Streetlib, esperto di editoria digitale di ebook, bentornato a 2024. Grazie. Tu ci hai lasciato l'ultima volta con una, più che una domanda, una considerazione, che però ci ha fatto sorgere delle domande. E ci hai detto: noi ogni 4, 5, 6 mesi ci incontriamo all'interno della nostra azienda e ci facciamo delle domande su come sarà il nostro business fra 15 anni. Allora, innanzitutto, questo potrebbe essere un esercizio utile per tutte le aziende. Sì, io lo suggerisco caldamente, perché le idee che vengono fuori comunque sono utili in ogni caso. Cioè, alcune saranno idee balzane, cioè ma cose assolutamente strane. Però è sempre bene tenerle lì da parte, non si sa mai. Una cosa che ci hai detto è: fra 15 anni, secondo noi, i libri saranno gratuiti, cioè non costeranno nulla, zero. Ma lo dite solo voi o c'è qualcun altro al mondo che lo dice? Questo non lo so. So che da quando ci siamo trovati qui e sentiti su questo argomento, in realtà già succede da qualche parte. Quindi cioè che ci sono libri gratis? Sì, noi lo vediamo noi stessi. Ci sono molti autori che magari per sperimentare o farsi conoscere ad altre finalità distribuiscono dei libri gratuitamente. Noi non accettavamo libri in distribuzione gratuita fino a un anno fa circa, perché il nostro modello di business è quello di una revenue share sulle vendite dei libri, ed è chiaro che se tu vendi un libro a zero, la mia revenue share potrebbe essere anche del 90%, ma ahimè resterebbe zero. Quindi sembrava molto logico dire ai nostri utenti: cari signori, metteteci un prezzo, e noi prendiamo la nostra parte, altrimenti non si può fare. Proprio dopo questo incontro che avemmo a settembre dello scorso anno, e ci eravamo sentiti poco dopo qui da Radio 24, decidemmo, intanto per vedere che cosa succede, per provare in concreto, di aprire invece questa possibilità, di vedere se qualcuno era interessato a distribuire i propri libri a prezzo zero. E oggi il 10% circa dei titoli che noi distribuiamo è già a prezzo zero. Cioè ci sono molte persone che investono il loro tempo, le loro conoscenze, la loro creatività nello scrivere, pubblicare e distribuire libri senza alcuna prospettiva di ricavo. Allora a questo punto ti faccio due domande. La prima è: qual è il modello di business di questi autori, che non guadagnando nulla dalla pubblicazione dovranno guadagnare da qualcos'altro? E qual è però il modello di business vostro in questo caso? Perché certo, se voi distribuite gratuitamente libri, come vi sostenete? Ok, dunque dal punto di vista degli autori credo che il ragionamento sia estendibile a tutte le professioni, diciamo così, creative. È vero che esiste una parte di autori, scrittori, ma potremmo aggiungere musicisti, cantanti, performers di vario tipo, professionisti che ricavano da vivere dalle loro, tra virgolette, opere. Ma è anche vero che invece la maggior parte di chi crea musica, libri, performance, arte, spettacolo, non ricava proprio nulla. Quantitativamente è così, è anche vero se sono che a pagamento vendono talmente poco, per cui o sono a pagamento e vendono poco, pochissimo, e comunque non è quella la motivazione, perché è talmente poco che non può essere la motivazione per cui scrivo un libro, mi sbatto per scriverne poi un altro e per pubblicarlo. È la motivazione in sé di esprimere se stessi, la propria conoscenza, la propria creatività, e di vederla diffusa e apprezzata o criticata, comunque confrontata con altri. Da questo punto di vista il fatto di metterci un prezzo è un ostacolo. Se la motivazione principale del creativo è quella di divulgare la propria opera, sì, ho capito, il fatto di doverla vendere con un prezzo è comunque un ostacolo, tendenzialmente. E questi guadagnano con cosa? Cioè immagino l'artista, facendo concerti, però lo scrittore... Ma siamo ancora più indietro, nel senso che oggi arrivano sul mercato opere di persone che fanno tutt'altro lavoro. E quindi opere a volte buone, a volte meno buone, di persone che comunque si cimentano per il loro puro diletto, che se ci pensiamo noi italiani poi è una cosa molto rinascimentale. C'erano i signori del Rinascimento, molti dei quali erano anche scrittori, artisti, eccetera, vivevano, beati loro, dei loro possedimenti, della ricchezza delle loro famiglie e di altre cose, e si dilettavano, il dilettante era quello che si dilettava, cioè faceva una cosa per divertimento, il diletto. E si contrappone al professionista, non sempre perché è più scarso del professionista, ma la contrapposizione dilettante-professionista è semplicemente nella motivazione. Io posso essere dilettante perché faccio questa cosa, magari benissimo, per diletto. Sì, non sì. mi interessano i soldi. Sì, sì, anche il professionista tempo... invece sì, sì. deve averne un ricavo. Certo. Ecco, questo sta tornando. Questa possibilità di esprimersi, ma non solo esprimersi, perché poi se la mia opera era destinata a rimanere nel cassetto, la motivazione non era granché. Oggi, quando, grazie anche a piattaforme come la nostra, posso portare la mia opera a contatto con tanti potenziali fruitori e quindi posso confrontarmi con chi poi della mia opera può fruire, la motivazione diventa forte, diventa importante. E quindi il poter divulgare un'opera a zero favorisce la divulgazione. È anche vero che poi molti professionisti, ma non della scrittura, qui andiamo nell'area della non fiction, questa è l'altra scoperta che stiamo facendo, molti professionisti di che cosa? Dei più diversi campi del sapere, scienziati, ricercatori, consulenti, tecnici, scoprono che il libro, l'ebook in particolare, per la facilità della sua divulgazione, può essere un ottimo strumento per farsi conoscere, per accreditarsi presso un mercato potenziale di quello che è il loro vero mestiere in termini di ricavi, la consulenza... Certo. Sì, sì, se io sono l'insegnamento, la ricerca, eccetera. Se io sono esperto di energia, ad esempio, che ne so, scrivo un libro sul mondo dell'energia e esattamente. Spero che venga apprezzato il mio lavoro, la mia competenza. Ma per quanto vi riguarda? Cioè, per quanto ci riguarda, lì è un po' più complicata. Lì è un po' più complicata. Allora, diciamo la verità: per fortuna abbiamo ancora tutto il resto del 90% che ha un prezzo. Quindi, certo, quindi potete permettervi i nostri, di. I nostri ricavi vengono ancora da lì. Diciamo che la funzione di aprirci a questa area è proprio nel costringerci e nel creare una certa pressione all'interno, perché questa domanda non sia solo la domanda che ci siamo fatti nell'occasione di un meeting e poi pensiamo ad altro, ma sia una domanda che si fa sempre più pressante giorno per giorno. Come far fruttare quel 10% di opere che tendenzialmente domani diventerà 15, 20, 90%? In un modo diverso da quello della vendita a cui siamo abituati oggi. Non abbiamo risposte pronte, cominciamo ad accennarne alcune. Sì, allora questo è interessante perché voi state dicendo, secondo noi fra 15 anni il mondo si trasformerà in modo tale per cui i libri saranno pressoché gratis. E noi non sappiamo bene come sarà questo mondo e cominciamo già oggi a sperimentare. Che è quello che io dico spesso che dovrebbero fare le aziende oggi di fronte a sfide tecnologiche. Pensiamo quando parliamo di industria 4.0. È una cosa complicatissima e quello che le aziende dovrebbero fare è cominciare a sperimentare per capirci qualche cosa. Non è che ci si può capire facendo un incontro con un consulente in un mese, due mesi, sei mesi, ci vorranno anni per comprendere questo fenomeno. Però l'importante è cominciare a comprendere queste trasformazioni tecnologiche. Quindi questo è un po' quello che state facendo. Esattamente questo. Cioè, per capirci qualche cosa bisogna starci dentro. Sì, sì. Questa è la verità. Perché non è nulla di già accaduto. Quindi non ci sono gli esperti che hanno già vissuto quella situazione e che tu puoi assumere e portarti a casa per farti fare la consulenza e imparare che cosa succede. Sono cose mai accadute che comunque stanno già cominciando ad accadere e che secondo noi accadranno. E l'unico modo per provare a capirci qualcosa è esserci dentro. Certo, ma questa prospettiva, io immagino che negli incontri che voi avete fatto abbiate anche ipotizzato un modello di business che possa essere sostenuto in un mondo dove il libro costa zero. E che risposte vi siete dati? Sarei bugiardo se dicessi che abbiamo già risposte. Okay. Ripeto, l'ottica non è solo un espediente retorico il mio, è veramente essere lì dentro e cercare di capire. Stiamo provando a delineare alcune linee di risposta. Le linee di risposta sono nella direzione di capire qual è la convenienza dell'autore nel fare questo, e ne abbiamo parlato prima, sì, e nel cominciare a immaginare servizi che rendano più facile e più efficace quel suo obiettivo. Se il suo obiettivo non è più guadagnare dalla vendita del libro, ma il suo obiettivo è avere più richieste di consulenza nelle aziende, mm-hmm. per esempio, sì. forse noi che distribuiamo il suo libro e sappiamo dove va a finire e in che termini, eccetera, forse possiamo creare dei servizi utili per quell'autore, sto semplificando molto, perché raggiunga quel suo vero obiettivo, che non è fare ricavi dal libro, ma ottenere più richieste di consulenza. Certo. Così come su altre aree, su altri aspetti, per altre tipologie. Un libro giallo, magari la logica può essere in una nella tendenza che c'è oggi di una grande domanda di contenuti da parte dell'industria dell'entertainment. Da sempre il libro è un grande generatore di contenuti per l'industria del cinema, per l'industria della fiction multimediale, per l'industria dei videogame. I personaggi nascono nei libri, i characters nascono nei libri, le trame nascono nei libri, eccetera. Quindi forse un'area che fino ad oggi noi non abbiamo toccato, perché abbiamo guardato al libro come fonte di ricavo diretta, potrebbe essere proprio questa, nell'aiutare questi autori ad avere dei ricavi dallo sfruttamento dei diritti di quel libro che è distribuito gratuitamente, ma che potrebbe intercettare una domanda di contenuti in settori contigui che sono quelli dell'entertainment. Sì. Senti, ma secondo te perché in questo incontro che voi avete fatto, uno degli incontri che voi fate regolarmente con tutti i vostri collaboratori, che sono una quarantina in totale, siete tra interni e esterni, sì, interni diretti e full time siamo in 20 circa, e poi questo gruppo di lavoro, sì. Ecco, secondo te perché si è arrivati al punto di definire come fattor comune questa idea, cioè secondo noi fra 15 anni i libri saranno gratis? Cioè, da dove nasce questa... Dunque, il percorso è stato questo. Nel disegnare c'eravamo così scolasticamente un po' divisi in piccoli gruppi a disegnare scenari, sì, appunto, sì. Tra 15 anni. L'unico elemento comune di tutti gli scenari che poi abbiamo condiviso era la centralità dell'intelligenza artificiale. La centralità dell'intelligenza artificiale significa cose che cominciamo a leggere tutti i giorni. Significa abbattimento drastico dei costi marginali di produzione di qualsiasi cosa. Sì, sì. Sostituzione della manodopera, non più soltanto della manodopera, ma diciamo anche del cervello d'opera in molte fasi. Questo poi è l'impatto dell'intelligenza artificiale, quindi non più solo robot col braccio meccanico che sostituiscono 10 operai, ma anche macchine che a loro modo pensano e escogitano soluzioni che oggi invece hanno bisogno di un'applicazione dell'intelligenza umana. Sì, sì, quindi voi dite le macchine diventano sempre più creative, saranno capaci anche di scrivere libri. Ma magari non direttamente così, perché ci sono anche tappe intermedie, ma di sicuro saranno in grado di impaginarli molto meglio di un umano, sì. anche con tutte le variabili di stile che uno possa immaginare. Di sicuro sapranno più efficacemente propormi, che ne so, una rosa di copertine tra quelle che incontrano il mio gusto nel giro di pochi secondi, invece di dover lavorare per 3 giorni su ipotesi di vario tipo, eccetera. Quindi diciamo, tendenzialmente comunque quella è l'ottica, la riduzione dei costi marginali di produzione di tutto. Sì, sì. Beh, comunque, ad esempio, una cosa che forse tu stesso dicevi o altri mi hanno detto, se io riesco e con i sistemi che esistono oggi lo riesco a fare anche in modo abbastanza semplice, a comprendere quello che piace alla gente, io in modo molto più semplice rispetto ad oggi riesco a creare dei romanzi. Questa è anche un'area, però francamente secondo me è anche la meno interessante, nel senso che poi la creazione dell'opera di per sé è un'area su cui si sperimenta, la poesia sta già succedendo, generazioni di poesie automatiche tra virgolette, e pian piano si arriverà a testi più complessi, più lunghi e più complicati, però questo non abbatte i costi, perché la verità è che la fase creativa è comunque a costo zero. Il creativo investe di suo, sì. Investe perché crea, perché scrive perché vuole scrivere. E finché quello che il contenuto della creatività non va sul mercato, non c'è nessuna transazione coinvolta. Quindi abbreviare o automatizzare il tempo della creatività di per sé, cosa che naturalmente può anche accadere, non è questo che però ha un impatto sulla filiera economica e delle transazioni di quel prodotto. Quello che ha impatto è quello che interviene nella gestione di quel contenuto. Quel contenuto deve essere formattato, deve assumere diversi formati, deve essere prodotto, deve essere messo a disposizione, deve essere distribuito eccetera. Fruito, eccetera, eccetera. Sì. Allora è quello che accade in quelle fasi che crea la catena del valore, che crea costi e prezzi, ed è lì che l'intelligenza artificiale interviene, e interviene, cominciamo a dire, forse anche un po' prima dei nostri 15 anni certo. stimati da quello. Quindi che voi dite vedendo. Tutto questo porta ad un abbattimento del costo, che è una cosa che sta forse succedendo anche in altri settori. Credo di sì, perché diciamo in alcuni settori in maniera reale, in altri forse in maniera un po' apparente. Sì, i primi esempi che verrebbero in mente sono quelli dei vari Google piuttosto che Facebook, eccetera, no? Che ci offrono queste cose meravigliose che sono tutti i servizi di Google dalla posta in giù, o questa piazza universale in cui ci ritroviamo tutti, che è Facebook, eccetera, senza dover tirare fuori un soldo. Sì, apparentemente gratis. Ecco, questi li collocherei nell'area dell'apparentemente gratis, perché effettivamente lì noi un prezzo, credo che ce ne rendiamo conto sempre di più, lo paghiamo ogni giorno regalando noi gratis oggi sostanzialmente, o perlomeno in cambio di questi servizi, regalando i nostri dati personali. Sì. E stiamo scoprendo che i nostri dati personali valgono un sacco di soldi, perché poi questi dati personali danno vita a transazioni, economie, shopping, eccetera, eccetera. Quest'area è, da questo punto di vista, meno interessante. È più interessante per un altro verso, e cioè, secondo me, per una corretta interpretazione dei temi della gestione dei dati personali. Continuiamo a discutere di privacy. La privacy è, a mio avviso, un concetto ormai vecchio, superato e inutile. Io non sono interessato alla privacy dei miei dati. Io sono interessato a che mi venga riconosciuto il valore dei miei dati. E voglio poter decidere a chi darli e a chi no, e voglio poter negoziare i dati nel momento in cui li cedo. Cioè io ti do i dati, ma non in cambio di servizi. Ma magari non mi basta più, caro signor Google, perché io fino ad oggi ti ho dato i miei dati in cambio del fatto che mi fai usare una mailbox per la posta elettronica, ma magari comincio a capire che i dati che io ti sto fornendo valgono di più. Valgono qualcosina di più se devo guardare le tue performance di mercato. Certo. No? Sì, sì. Ecco, quindi questo, diciamo, apre un altro capitolo per dire come poi un'economia di zero prezzo sui prodotti in realtà non significa la scomparsa dell'economia, perché l'economia si muove su altri versanti. L'area invece in cui secondo me il discorso del prezzo zero, e quindi del gratis vero, tra virgolette, è destinato a delineare il paradigma del futuro, è proprio quello dei contenuti in particolare digitali. Forse neanche solo digitali, anche alcuni prodotti fisici, per quanto a oggi possa sembrarci impossibile, tendenzialmente potrebbero arrivare a zero, ma di certo i contenuti digitali. Un ebook che già oggi, per i costi di produzione che ha, si può tranquillamente vendere in maniera remunerativa, dati alla mano, a 1,99€, non arrivare da lì a zero non è che effettivamente ci voglia. Però non c'è molto altro. La musica assomiglia molto a questo, i film assomigliano molto a questo, tutto quello che diventa digitale è prima di ogni altra cosa destinato, credo, a questo passaggio. Se oggi hanno ancora dei prezzi elevati è per un evidente artificio e per attriti che vengono imposti. Beh, adesso mi viene in mente che ad esempio O'Leary, il capo di Ryanair, dice io immagino un futuro, allora è vero che è 20 anni che lo dice, però lui dice immagino un futuro in cui i prezzi dei voli aerei saranno almeno per una parte dei passeggeri a costo zero, perché gli aeroporti, che stanno creando un'economia attorno ai negozi, attorno alla ristorazione, avranno bisogno di persone che transitano negli aeroporti, quindi io ti offro a te compagnia aerea delle opzioni per cui tu esattamente così non fai quello che nulla. C'è alle spalle è però il concepire, il trasformare il prodotto in un prodotto intangibile. Lui non vende più quella poltrona di quell'aereo vende il servizio di spostamento di viaggio da Ancona a Londra o da Alghero a Vattelapesca. Allora, effettivamente lì poi entrano in gioco queste stesse dinamiche. Senti, in tutto ciò, e poi concludiamo, la carta che ruolo gioca? Cioè va a finire a zero, cioè anche scomparirà secondo te? Perché se guardiamo le dinamiche di oggi non sembra che la carta stia scomparendo, almeno per quanto riguarda i libri. Allora, per quello che riguarda i libri, la carta così com'è, che ne scrivano in molti ogni tanto in maniera non del tutto, diciamo così, imparziale, tende a scomparire. Se uno dovesse prendere il settore com'è, prendiamo l'Italia, in Italia si vendevano 5 anni fa quasi 3 miliardi di libri, parlo del settore cosiddetto trade books, la lettura diciamo da tempo libero, fiction e non fiction, quasi 3 miliardi di libri. 3 miliardi? 3 miliardi di pazzesco. Euro. Di euro? Di euro. Ok. Non copie, 3 miliardi di euro di libri, e nel 2016 non lo sappiamo ancora, nel 2015 a stento si arrivava a 1 miliardo, quindi i conti sono presto fatti, il trend di quel tipo. Il tema è che però la carta si può salvare, e la carta si può salvare a patto che venga fatta una diagnosi corretta di qual è il problema del libro di carta. E mentre la diagnosi che si tenta di divulgare e che viene per lo più pubblicizzata è quella per cui, oddio, è arrivata internet, il digitale, l'ebook e stanno mangiando quote al libro di carta e quindi l'ebook è il nemico del libro di carta, eccetera, eccetera, la verità è che il nemico del libro di carta è il libro di carta così come è concepito, prodotto e distribuito oggi, assolutamente. Basti dire, cosa che forse ho già ripetuto altre volte a questi microfoni, che le rese medie dei libri di carta in Italia, ma all'estero non è diverso, sono del 60%, per capire che è una filiera che non è più sostenibile. Cioè, quindi fatto 100 il numero di copie che vengono distribuite, 60 tornano indietro. Esattamente. Devono andare al macero. Esattamente. E che poi, essendo una media di trilussa, come al solito, cioè, ci sono libri pochi libri che vendono tutto e la stragrande maggior parte dei libri che non vende quasi niente. Sì. Ora è chiaro che un settore basato su questi numeri non è destinato ad esplodere o a implodere, se vogliamo, ed è quello che sta succedendo. Allora, anche qui, aprirsi al digitale e alle tecnologie digitali significa capire che oggi si può mettere in vendita un libro di carta che non esiste ancora, perché è possibile nel momento in cui un cliente lo ordina, perché lo preferisce comunque di carta, e non si vede perché impedirglielo, è possibile in quel momento avviare la produzione di quel solo libro in una sola copia che viene stampata e spedita in tempo utile al cliente che la riceve a casa. Se vuoi, anche questa è una risposta al prezzo zero dell'ebook. Anche mettere i piedi e le mani dentro il libro di carta, che invece un prezzo comunque ce l'avrà, perché comunque è un oggetto fisico con una sua necessità di economie, mettiamo le mani anche lì, in competizione, se vogliamo, alla struttura di distribuzione tradizionale del libro di carta oggi. Certo, quindi io compro un libro di carta, come tu dicevi, non esiste ancora quel libro. Esatto. Dal momento in cui io lo ordino, parte tutto un meccanismo tale per cui tu comunichi allo stampatore, il libro viene stampato, viene distribuito e arriva a casa mia. È un servizio che stiamo già fornendo. Stampa on demand. Esattamente. È la stampa 3D. Sì, perché però non è tanto sulla produzione la differenza, quanto sulla distribuzione, perché la tecnologia esiste da anni, solo che fino ad oggi il print on demand è stato interpretato come la stampa su domanda dell'autore sfigato che non ha nessuno che gli compra i libri, parliamoci chiaro, no? E si compra lui le copie da solo, quindi la demand era quella dell'autore. Noi lo chiamiamo print on sales, perché la differenza è tutta lì, è rendere disponibile questa filiera a chi i libri li compra. Molto bene, io ringrazio Antonio Tombolini per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti, a presto. Versione podcast terminata, grazie come sempre per la vostra attenzione, anche questa settimana abbiamo fatto più di un'ora di trasmissione solo per i nostri fedeli ascoltatori via podcast. Fateci pubblicità, quindi passate parola, e se lo ritenete opportuno ovviamente, però penso che soprattutto per chi lavora nel settore, ma non solo, un po' per tutte le aziende, un po' per tutte le persone che hanno oggi un lavoro, una passione, sia necessario imparare dai nostri ospiti quello che sta succedendo. L'indirizzo di posta elettronica del nostro programma è 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana, continuate a scriverci come state facendo, suggerendo che cosa fate mentre ascoltate 2024, come ci ascoltate, insomma sono informazioni prevalentemente di curiosità mie personali. Ci risentiamo la prossima settimana, ancora un grazie per la vostra attenzione, per aver scaricato o ascoltato in streaming questo programma.